Rovesci24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera accontentiamo Giulia, che ogni tanto ha delle passioni improvvise ma incontenibili. No, non stiamo parlando di un eroe di qualche serie televisiva. Questa volta mi ha detto, e devo confessare, un sacco di miei amici me l'avevano già detto e quindi devo per forza farlo: leggi l'autobiografia di Andre Agassi. È davvero bella, Giulia? È stupenda. Dei 100 circa libri che ho letto nel 2011, è sicuramente number one. E mi hanno detto in tanti, appunto, che è bellissimo questo libro, scritto da Andre Agassi. Lo conoscono praticamente tutti, ha poco più di 40 anni, 42 anzi, sto facendo il conto in questo momento, ex campione di tennis, ma insomma nella sua vita ne ha fatta più d'una, ne ha combinate tante, successi ma non solo, che ha raccolto appunto in questo libro. Noi siamo andati a recuperare un po' di interviste che ha rilasciato a proposito del libro e non solo, Andre Agassi. La prima, un'intervista che ha rilasciato alla BBC con la sua splendida moglie, altra grandissima ex campionessa di tennis, cioè Steffi Graf. Hanno raccontato, beh, sono partiti diciamo dal primo incontro, possiamo dire così, ascoltiamoli. That was the first year, if I'm not mistaken, they sort of banned the dance. They said, well, the players sort of took issue with it over the years, so they didn't have it that night, so... I worked them real hard to cancel it. Yeah. So you were disappointed there was no dance? I was looking forward to twirling her across the dance floor. Oh, yes, because I was practicing with my brother, and it was one of those things, I've never learned how to dance the proper way. So he taught me a couple steps because he did, and it just, it wasn't pretty, so I wasn't looking forward to that in that sense. So fate intervened, really, and you didn't get to have your first dance then. What did you think of each other at that time? What did you know of each other? She was a step in the right direction for me, and I probably was a step in the wrong direction for her back then, I don't know. Allora, spesso si sente raccontare dalle coppie che magari si sono conosciute a una dance, a un'occasione, insomma, ma in questo caso questa dance che doveva esserci era stata cancellata. Sì, questo era questo è un bellissimo episodio. Guarda, vi consiglio a tutte le romantiche o i romantici di guardare questa intervista, perché sono sposati da 10 anni e si guardano ancora come ragazzini che si sono innamorati il giorno prima. Comunque lui ricorda di questo ballo, perché la tradizione di Wimbledon è che il vincitore del torneo maschile balla con la vincitrice del torneo femminile. Quell'anno lui aveva vinto, lei aveva vinto, ma ricorda lui, if I'm not mistaken, se non mi sbaglio, quell'anno they sort of banned the dance. Sabato scorso ricordate la scrittrice che usava kind, ecco, André preferisce sort, ma è lo stesso l'intercalare, che sappiamo vuol dire poco. Comunque they sort of banned the dance, avevano praticamente, diremmo noi in italiano, cancellato, to ban, vietato questo grande ballo, che invece lui voleva assolutamente fare perché lui era già innamorato di lei. E soprattutto, cioè, non si era allenato, non so, insomma, si era preparato anche tecnicamente per fare questo ballo. Lui si sentiva, insomma, che come ballerino non avrebbe fatto la sua una cattiva figura, mentre lei era molto spaventata, tant'è che diceva che she had been practicing with her brother, si era addirittura ballava con suo fratello, che tra l'altro era anche uno dei suoi coach insieme al padre, e perché ballare era one of those things I never learned how to do properly, che non avevo mai imparato a fare properly, cioè nel modo giusto, perché Steffi Graf naturalmente era una perfezionista, ma pensare che potesse, si vede che nella sua testa lei o ballava da campionessa oppure non ballava. Perciò alla fine lei in realtà era relieved, lei era contenta che alla fine questo ballo non ci fosse, André per niente. Molti si ricorderanno che in realtà Agassi si era sposato una prima volta con Brooke Shields, un matrimonio insomma un po' controverso e non finito bene, poi ne parlerà. E l'intervistatrice della BBC dice, ma in quel momento cosa pensavate l'uno dell'altra? Qual era il vostro atteggiamento l'uno nei confronti dell'altra? What did you think of each other? What did you know of each other? E perché in quel momento, tra l'altro, leggete Open, c'è scritto tutto. In quel momento André era ancora sposato con Brooke Shields e l'amava, a suo modo, non parla la romantica in me, ma comunque. Insomma, la sua risposta è: Steffi was a step in the right direction for me, cioè sarebbe stato un passo nella giusta direzione per me, but I was a step in the wrong direction for her back then, perché poi naturalmente si sono rincontrati. Quindi lui ammette che in quel periodo non era proprio al suo meglio di equilibrio e serenità, e quindi probabilmente non sarebbe stato il compagno ideale per lei. Ne parleremo tra poco con il terzo estratto dei momenti difficili di Andre Agassi, ma adesso lo scopriamo anche molto spiritoso. curioso perché è stato ospite di un'altra trasmissione americana sulla ABC, che è il Jimmy Kimmel Live, appunto con Jimmy Kimmel, e ascoltiamo cosa si sono raccontati Jimmy Kimmel e Andre Agassi. Please welcome Olympic gold medalist, best-selling author, and the pride of Las Vegas, Andre Agassi. How's it going? It's going great. I'm glad to see you. Last time I saw you was in Las Vegas, and you were nice enough to ask me to be a part of a great educational organization you've started there. And you raised, tell everyone how much money you raised. Yeah, well, my annual fundraiser this year was the biggest year of all time. That Saturday night, on October 29th, we raised $26.1 million. And it was because of you. Thank you very much. Thank you. And after, this is the greatest part, after we raised the $26 million, we went into the casino and we turned it into $52 million. Allora, in Italia non lo conosciamo tanto questo Jimmy Kimmel, che invece è molto popolare negli Stati Uniti. E quindi c'è questa formula appunto per introdurre gli ospiti, che è please welcome, quindi date il benvenuto a Olympic gold medalist, perché di Agassi sì, uno dei suoi record è appunto che oltre ad aver vinto tutti e quattro i tornei del tennis del Grande Slam, quindi Parigi, Londra, New York e Sydney, ha anche vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E poi però è anche un best selling author, perché il suo libro Open ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti e in tutti i paesi dove è stato tradotto, e poi è Pride of Las Vegas, l'orgoglio di Las Vegas. E poi c'è questo straordinario siparietto sul fatto che i due si conoscono e hanno fatto qualcosa di molto importante insieme. Sì, sempre nel libro si racconta di questa evoluzione di Andre Agassi, che ha costruito questa Great Educational Organization, che in realtà è proprio una vera e propria scuola privata, che naturalmente è aperta a chi non potrebbe permettersi una scuola di standard accademico molto alto. Per mantenerla, naturalmente, non basta il montepremi di Andre Agassi, ma ci vogliono questi fundraiser, cioè questi eventi che to raise vuol dire alzare, fund sono i fondi, quindi raccolta fondi. Andre asked him to, tant'è che lui dice I was asked to, quindi mi è stato chiesto da te di partecipare, e sono riusciti il 29 ottobre, October 29th, hanno raised $26.1 million. Notate l'uso di million, noi diciamo 26,1 milioni di dollari, invece in inglese si dice million singolare, dollars plurale. E con il point, non con la virgola, e ormai anche da noi in tanti dicono punto e io mi arrabbio tantissimo. Ma cosa hanno combinato secondo Jimmy Kimmel? Sì, perché poi dice we went into a casino. Las Vegas, lo sappiamo tutti, è credo la città con la più alta, con il più alto numero di casino e con la più alta densità di casino. We turned it into 52. To turn naturalmente vuol dire girare, ma to turn in, phrasal verb, trasformare. Quindi abbiamo trasformato i 26,1 in 52, magari. Andre Agassi non è un santo, però cerca anche di dare una spiegazione a tutto quello che gli è successo. Ne ha parlato anche, sempre con una certa ironia, con un altro dei grandi conduttori degli show televisivi americani. Noi siamo particolarmente affezionate a David Letterman. Here's what I know about this book. One, in the book you talk about using crystal meth. And that's true, right? Well, that was actually a typo in the book. I said I did math in 1997. Oh, it is, I see. It came out crystal meth. But it's just as well, because nobody who knew me then would believe I did math. Of all the things a person might want to do, drinking other kinds of drugs, why in the world would crystal meth be your first choice? This stuff is a known killer, isn't it? Oh, it is. Well, I don't think anybody really is aware of what a killer anything is when they make that choice. But, you know, I was at a time in my life where I was in a life I didn't want, in a life I didn't choose, a marriage I didn't want to be in, and I was pretty much depressed, to be quite honest. Somebody comes along and offers me an escape, and I took it. And like most people, a mistake usually leads to more mistakes. Right. Ecco qua, parla di una cosa molto seria, anche qui scherzando con qualche gioco di parole con David Letterman, si parla di un periodo molto buio nella vita di Andre Agassi, un periodo in cui ha incontrato la metanfetamina, crystal meth. Qui lui fa una battuta per sdrammatizzare, dice well actually it's a typo in the book, typo è il refuso, ovviamente math vuol dire anche matematica, quindi in realtà io avevo scritto che I did math, che mi davo alla matematica in quel periodo. Quindi il refuso era non math come metanfetamina, che con la E, invece math con la A, la matematica. Tra l'altro qui c'è un'espressione che non possiamo tradurre letteralmente, why in the world, che noi diremmo in italiano, ma perché mai? Cioè perché proprio la metanfetamina, che David Letterman definisce un known killer. Mi immagino questo dialogo tra un conduttore italiano e un ospite italiano in televisione, la vedo assolutamente impossibile. Dovrebbe usare dei sinonimi, dei giri di parole, non usare la parola droga. E lui con grandissima serenità, perché evidentemente è riuscito a guardarsi dentro, parla di questo periodo buissimo, parla di questo periodo tremendo in maniera molto lucida. Sì, dice: I was in a life I didn't want, I didn't choose. Questa è una cosa che nel libro è spiegata molto bene, perché è un percorso, naturalmente. È una vita che non volevo, una vita che non avevo l'impressione di aver scelto. A marriage I didn't wanna be in, il famoso matrimonio con Brooke Shields, che è durato solo 2 anni. Somebody comes along, e arriva qualcuno. Questa è un'espressione, appunto, che in italiano diciamo: arriva qualcuno sulla mia strada, entra qualcuno nella mia vita e offers me questa crystal meth. E poi dice una verità così lapidaria, che, come succede a tanti, a mistake leads to more mistakes, perché tra l'altro lui poi venne trovato positivo a questa droga e mentì su come l'aveva presa. Insomma, una vita dorata e allo stesso tempo molto difficile, questo appare dall'autobiografia Open di Andrea Agassi. Noi salutiamo Andrea Agassi, prometto che leggerò al più presto questo libro. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.